Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugünkü programda 6 Nisan 1935 doğumlu İtalyan şarkıcı, söz yazarı, besteci, yapımcı ve aynı zamanda film müzikleriyle ünlü Alfredo Antonio Carlo Bongusto ya da tanıdığımız ismiyle Fred Bongusto'nun 60 ve 70'lerden parçaları yer alacak. Çizmenin mahmuzunun hemen üstündeki Molise eyaletinin Campo Basso kentinde dünyaya gelen Fred Bongusto, özellikle 60'larda ve 70'lerde çok popülerdi. Frank Sinatra'yı hatırlatan klasik ve ailenizin şarkıcısı hali, sıcak ve sevecen vokali sayesinde İtalyan müzik tarihinde kalıcı bir yere sahipti. Şimdi en bilinen eserlerinden 18 yaşında Napoli diyalektinde yazdığı dokunaklı şarkısı Dolce Dolce, arkasından da Balliamo ile programımıza başlayalım. E tanto triste amore dirsi addio. Stasera fremo un pietto, o cor mio. Ma dolce, dolce, dolce per ne valse, dolce, dolce, per te saranno giorni come nate. Per me tutto il mondo se ne chiude, ma dolce, dolce, dolce era ne valse, dolce, dolce. O tiempo pasará, na tomba te stringerà, allora tu forse tremando ricorderai come ha chiamato, che sto occhi tuoi, sta bocca tua. E tanto triste amore dirsi addio. Stasera fremo un pietto, o cor mio. Ma dolce, dolce, dolce era ne valse, dolce, dolce. Dolce, dolce, dolce. dolce. Parliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Parliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo, questa sera sono in vena di follie. Noi due, stretti stretti come tanto tempo fa. Che scena, più ti guardo e più mi sembri una regina. Sei stupenda nel tuo abito da sera, così bella non t'avevo vista mai. Sei grande quando dici che tu ami un incosciente. Più grande quando ammetti che anche tu mi vuoi così. D'accordo, ho un carattere che è un po' particolare. Eppure, dimmi chi ti può capire più di me. Balliamo, sembra scritta per noi due questa canzone. È una storia che assomiglia al nostro amore. Un amore mezzo pazzo come me. Amore, balliamo, non vorrei che fosse l'ultima canzone. 3 minuti per convincerti che amore. Dai, balliamo. Dolce Dolce ve Balliamo dinledik Fred Bongusto'dan. 1950'lerin ortalarında hukuk okumak için Padova'ya yerleşiyor ve diğer üniversite arkadaşlarıyla Caffè Pedrocchi orkestrasına katılıyor. Ama müziğe devam etmek istediği için hukuk eğitimine ara veriyor ve böylece çeşitli orkestralarda şarkıcı ve gitarist olarak yer almaya başlıyor.

vedrai. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me, per te. Lola, at the drive. Una rotonda sul mare ve spaghetti a Detroit dinledik, Fred Bongusto'dan. 1959 yılında I Quattro Loris grubuna solist ve gitarist olarak katılıyor. Ve bu grupla Giovanni Battista Ansoldi'nin şirketiyle bir kayıt sözleşmesi imzalıyorlar. 59'da ilk 45'liklerini, ardından da 61'de ikinci 45'liklerini yayınlıyorlar. Şimdi ilk 45'liklerinin bir yüzünden Stringi mi e Bacia mi? Arkasından da 61'deki 45'liklerinden Notte d'amore, şimdi Itabella'da. Stringimi, stringimi e baciami, baciami, dimentica che abbiamo un passato. Baciami, baciami e stringimi, stringimi, è inutile pensare al domani. Scordati, abbandonandoti a me, a me, a me. Oh, stringimi, stringimi e baciami, baciami, rivelami tutto un mondo d'amore. Baciami, baciami, rivelami tutto un mondo d'amore. La la la la la la la la la la. Baciami. La la la la Notte d'amore, solo con te. La porta dei sogni s'apre per me. Dorme la città, spente sono le luci. La notte fatta di baci, di lunghi istanti felici, nel buio con te, tutta per me. È bello restare, sognare insieme. Mm-hmm. te l'amore, solo con te. La porta dei sogni s'aprirà per me. Dorme la città, spente son le luci, la notte fatta di baci, di lunghi istanti felici, nel buio con te, tutta per me. È bello restare, sognare, notte, notte, notte d'amore. Stringimi e baciami ve notte d'amore dinledik. Bon Gusto'nun bir solist olarak potansiyelini sezenen Soldi, kendi şirketiyle Ocak 1962'de ilk solo kaydı olan Bella Bellissima yayınlıyor. Çok gençken bestelediği bir başka Napolitan olan Dolce Dolce'yi zaten dinlemiştik. 4 ay sonra da bir şarkıcı ve söz yazarı olarak yeteneğini kanıtladığı, doğruladığı ağır başlı Frida yayınlanıyor. Şimdi biz önce Bella Bellissima, arkasından da Frida'ya kulak veriyoruz. Tutti i poeti han cantato una donna che al mondo non c'è. Ma nel mio mondo esiste una donna, sei tu, e canto per te. Bella, bellissima, come una favola. Bella, bellissima, pura bellezza astratta sei tu, l'universo vedo in te. Bella, bellissima, come una favola, dolce, dolcissima. Quando mi guardi che cara tu sei, tutto il mondo ti darei. No, non cambiare, lasciati amare e resta sempre così. Bella, bellissima, donna magnifica, so che i poeti l'han scritto, so che già tutti l'han detto, ma bellissima sei tu, sei tu per me. Perché sei bella, bellissima, come una favola, come una favola. Sei bella, bellissima, sei bella, bellissima, sei bella. Bella, sei bella. guida. T'aggio voluto bene, ma dopo tanto bene si scordate me. Frida, bastava una parola detta a sta bocca tua, non mi fa consolare. Cagnerai con me lacrima amara. Agarrai a così, o male che mi fai, tutte pene che mi dai, tutte pene che mi dai. Frida, Frida, t'ho voluto bene. Doppe tanto bene, se scordate me. Fred Bongusto'dan Bella Bellissima ve Frida'yı dinledik. 1963 yılında maestro Georgi Kremer onun sesini fark ediyor ve televizyon programı Leggerissimo'nun tema şarkısı olarak Amore Fermati'yi seslendirmesini istiyor. Böylece televizyonun spot ışığı sayesinde single Mayıs 1963'te kelimenin tam anlamıyla bir hit olup listelerde 4. sıraya kadar çıkıyor ve artık İtalya'nın yeni bir starı var. Aynı yılın Nisan ayında ise 30 yıl sonra Bossa Nova ustası João Gilberto tarafından yeniden yorumlanacak onun klasiklerinden biri olmaya aday biraz İspanyol esintili Malaga'yı piyasaya çıkartıyor. Şimdi biz bu iki unutulmaz eseri Fred Bongusto'dan dinliyoruz. Amore Fermati ve Malaga şimdi radyonuzda. Amore fermati, questa sera non andartene. Un'orchestra tra le nuvole la tua canzone suonerà. Amore, baciami, siamo soli, amore, baciami. Forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Il mar, stasera appartiene a noi. La luna negli occhi tuoi, stasera mi fa sognare. Amore, fermati, sta vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. amore, fermati. Sta vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Ma non t'ho amato mai così. Ma non t'ho amato mai. Il mio amore è nato a Malaga, Malaga, Malaga. Il mio cuore resta a Malaga, Malaga, Malaga. In quella casa dal patio antico, quante dolcezze t'ho sussurrato. In quella notte di grande fiesta io t'ho donato il mio cuor, tutto l'amore. Il mio amore è nato a Malaga, Malaga, Malaga. Il mio cuore resta a Malaga, Malaga. Quella notte di grande fiesta io t'ho donato il mio cuor, tutto l'amore. Il mio amore è nato a Malaga, laggiù a Malaga. Il mio cuore resta a Malaga, Malaga. Amore Fermati ve Malaga dinledik Fred Bongusto'dan. 1963 yılına geldiğimizde Güney Amerika'daki ilk turnesine Uruguay'dan başlıyor. Kariyeri boyunca 30'dan fazla filmin müziklerini besteleyen Fred Bongusto, 1964 yılında Vittorio De Sica'nın yönetmenliğinde başrollerini Sofia Loren ve Marcello Mastroianni'nin paylaştığı Oscar adayı İtalyan tarzı evlilik filminin final şarkısı olan O Cielo Che Mano Stilicose'yi Armando Travajoli ile birlikte besteliyor. Şimdi biz önce bu eseri dinleyeceğiz. Arkasından da 1965 yılında Kiki D ile birlikte katıldıkları ilk Sanremo Festivali'nde söylediği parça olan Aspetta Domani'ye kulak veriyoruz. Starà o profumo le cose felice, o cielo ha voluto così e non tengo più a te, o cielo c'è manna sti cose e ce li mantene. Nu guarda, nu guarda, si una lacrima scende, la luce si studa. No, tu lasciami piangere. Così e non tengo più a te. O cielo, c'è manna sti cose e c'è l'immagine. Non guarda, non guarda, se una lacrima scende, la luce si studa. No, tu lasciami piangere, lasciami piangere, lasciami piangere. O Cielo Ce Manna Ştili Kozeyi ve arkasından da Aspetta Domani'yi dinledik Fred Bongusto'dan. 1960'larda ve 70'lerde sık sık Ray'de çeşitli programlarda yer alıyor. Orkestrasıyla canlı olarak parçalarını icra etme fırsatı elde ediyor. 70'lerde kariyerine ayrıca seçkin gece kulüplerindeki canlı performanslarını ekliyor ve böylece yıldız sanatçı statüsünü pekiştiriyor diyebiliriz. 70'lerin ikinci yarısından itibaren Conviene far bene l'amore, Il giorno e la notte, Professionista albümlerinde de kanıtladığı gibi repertuarını funky ve disco müziği etkileriyle zenginleştiriyor ve yeniliyor. Güney Amerika ile bağı hiçbir zaman kopmayan Fred Bongusto, aynı yıllarda Brezilya müziğiyle olan ilişkisini güçlendiriyor ve Fred Brazil adlı albümü 1979 yılında yayınlıyor. Ve bu albüm vasıtasıyla çeşitli klasiklerini yorumlarken samba ve bossa nova tonunda yeniden ziyaret ediyor. Biz şimdi Bongusto'dan iki klasiğe daha kulak vereceğiz. Önce 1974 yılından Tre Settimane da Raccontare, arkasından da 1978 yılından Bruttissima Bellissima'yı dinliyoruz. Brillanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone è prima da tre settimane. Tre settimane da raccontare agli amici tornando dal mare, ma cosa ho detto di male? Non fare l'offesa, ti prego, ritorna qui. È tanto poco che ci conosciamo e ancora non t'ho detto che ti amo, ma ogni giorno che passa mi sto innamorando di più. Tu sei andata a piangere in cabina, ma non aver paura non è soltanto un'avventura. Ti prego adesso apri per favore e asciugati che prendi il raffreddore, ma sì, ti voglio bene almeno da tre settimane. Tre settimane da raccontare un'estate, un dolcissimo amore, tu t'avvicini e mi abbracci, tu piangi e sorridi e mai perdonato già. Il sole si nasconde dietro al molo, la luna fa una virgola nel cielo e noi viviamo la nostra canzone che non finirà. Canzone che non finirà. altissima, col broncio e gli occhi bassi sei bruttissima. Non morderti le labbra come fai, cosa sei così? Non uccidermi, in fondo è tutta colpa della musica. Se ho perso un po' di tempo insieme a lei, cosa sei? Amore, sei bellissima, le gambe fra le braccia e gli occhi perfidi. Sei dolcissima, gelosa più dei riccioli che hai. E poi sei bellissima, scommetto che fra un po' ti metti a ridere. Sei bellissima, adesso che ti stringi forte a me, amore mio, sei bruttissima. Si fa così per dire sei bellissima. Non uccidermi, un bacio per vendetta e un po' di musica. Adesso che ti stringi forte a me, cosa sei? Amore, sei bellissima, le gambe fra le braccia e gli occhi perfidi. Sei dolcissima, gelosa più dei riccioli che hai. E poi sei bellissima, scommetto che fra un po' ti metti a ridere. Sei bellissima, adesso che ti stringi forte a me, amore mio, bellissima. Un bacio per vendetta e un po' di musica. È chiaro che mi provochi, lo sai, cosa sei? Tre settimane da raccontare ve bruttissimo bellissimo dinledik Fred Bongusto'dan. Bugün Napolili bir baba ve Venedikli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen, Roma'da gözlerini 8 Kasım 2019'da kapatan Fred Bongusto'nun şarkıları konuk oldu Itabella'ya. Jacques Revaux'un unutulmaz bestesi olan, çok farklı dillerde yorumlarını dinlediğimiz Comme d'habitude'ün İtalyanca yorumuyla veda edeceğiz programımıza. Ben bu şarkıyı geçen hafta aniden veda etmek zorunda kaldım. Nünücüğüme gönderiyorum müsaadenizle. Umarım her neredeyse sevdiği şarkılar yanındadır. Ben Cansın Sayesen. Fred Bongusto'dan La Mia Via ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Perché restare qui se la platea è già deserta, perché che cerco mai, che voglio mai più del successo, perché se in fondo io non ho lottato, che per questo e ormai l'ho scelta già questa mia via. Vorrei, come vorrei, vederti lì in prima fila, così, così almeno tu vedresti che sono cambiato, che in me non c'è già più quell'entusiasmo una volta, ma io l'ho scelta io questa mia via. Indietro ormai non si va più, io lo vorrei, ma non si può più, adesso sì, è tardi ormai, capisco che tutto sbagliai, perché eri tu, soltanto tu, questa mia via. Son qui, che senso c'è, m'accorgo che la scena è vuota, e qua la verità non sono che uno che piange, perché io più di te ho amato me ed i miei sogni, che ormai non hanno più la tua via. Indietro ormai non si va, io lo vorrei, ma non si può più, adesso sì, è tardi ormai, capisco che tutto sbagliai, perché eri tu, soltanto tu, questa mia via. La mia via.